30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Due francesi, un belga e l'italo-colombiano Diego Urbina sono i quattro europei selezionati per Mars 500, la simulazione di missione spaziale verso il pianeta rosso organizzata dalla Russia e dall'Agenzia Spaziale Europea. Per 520 giorni due di loro vivranno isolati con tre colleghi russi e uno cinese all'interno di un'astronave che non lascerà mai la periferia di Mosca. ...250 giorni per andare dalla Terra a Marte, 30 giorni sul pianeta rosso, poi altri 240 giorni per tornare. Intanto buonasera a tutti da Gigi Donelli. Dunque, questo è Mars 500. Nel futuro dell'esplorazione interplanetaria i tempi inevitabilmente si dilatano. Noi siamo andati al centro olandese dell'ESA di Noordwijk per parlare del senso di questa missione con il giovane Diego Urbina e con l'italiana che guida il direttorato per l'esplorazione spaziale dell'ESA, l'astrofisica Simonetta Di Pippo. Perché l'idea di chiudersi 520 giorni in un luogo appunto isolato? A 26 anni, giovane ingegnere, come dire, normalmente si pensa a spazi liberi, a grandi viaggi. Sì, infatti sembra anche un po' pazzo, ma non è così. È per me un sogno che si avvera in questo momento. Io vorrei fare l'astronauta come tanti ragazzi. E in questo momento la cosa più vicina a fare l'astronauta per me. E anche per la scienza, è da qualche anno che lavoro a esperimenti per lo spazio e questo è proprio il massimo degli esperimenti che si possono fare a terra sullo spazio, e per quello. Ecco, Simonetta Di Pippo, responsabile invece del volo umano per l'Agenzia Spaziale Europea. Dunque, in questo progetto quanto c'è realmente, diciamo, di step forward, di passo in avanti per raggiungere finalmente Marte in futuro? Ma ci sono due aspetti fondamentali e prima di guardare quello spaziale vorrei sottolineare quant'è importante anche per la ricaduta sulla Terra. E come diceva Diego prima, in realtà ci sono una serie di attività, una serie di esperimenti che vengono fatti in questi 520 giorni che sono proprio importanti per capire anche il comportamento dal punto di vista fisiologico, dal punto di vista psicologico, anche dal punto di vista sociologico, che possono avere un grosso impatto anche su, diciamo, sul cittadino. Ed è proprio per questo che in parallelo ho anche appena riorganizzato la struttura interna del mio direttorato qui all'ESA, creando una divisione che si occupa specificatamente di medicina spaziale, perché in realtà tutte le attività che noi facciamo sia sulla stazione spaziale ma anche in queste simulazioni sono fondamentali proprio per studiare anche malattie croniche sulla Terra, ma non solo, e questi risultati ci aiutano a capire meglio proprio come aiutare il cittadino. Quindi è anche un tentativo di mettere più vicino le attività spaziali, cioè avvicinare le attività spaziali alla vita di tutti i giorni, cosa che in realtà non viene quasi mai fatta, perché noi ci occupiamo molto spesso soltanto di far funzionare bene la macchina spaziale, perché ovviamente poi quando abbiamo degli astronauti, in questo caso una simulazione a terra molto difficile anche dal punto di vista proprio di occuparci della loro salute psicologica, ma anche di dare a loro la possibilità di guadagnare sia in termini di come esseri umani, ma anche dal punto di vista professionale, da questa esperienza, perché non può essere soltanto a senso unico. Quindi speriamo che questo sia molto utile anche per loro. Quindi ci occupiamo anche di tutti questi aspetti per la simulazione, ma potete immaginare, in preparazione di un volo verso Marte, di un volo vero verso Marte, quanto l'aspetto umano, fisiologico, la biologia, con gli aspetti biologici coinvolti, le malattie, anche come gestire eventualmente problemi, se volete, di urgenza, perché adesso sulla stazione spaziale internazionale, come sapete, ci sono 6 astronauti permanentemente a bordo, 2 capsule Soyuz che funzionano da eventualmente anche da scialuppe di salvataggio. Se c'è un problema, un'ora e mezza al massimo gli astronauti possono essere sulla Terra. Su Marte, se dovesse accadere qualcosa del genere, chiaramente la situazione sarebbe completamente diversa, perché sempre 7 mesi ci vogliono per tornare indietro e sempre bisogna aspettare che Marte sia in una posizione giusta rispetto alla Terra per poter tornare indietro. Quindi la situazione è completamente diversa e si aumenta di molto la necessità per gli astronauti di essere più autonomi rispetto al ground control, cioè l'autonomia dell'astronauta in una missione come Marte aumenta enormemente rispetto a quello che invece succede sulla stazione. Quindi questa simulazione è fondamentale anche per questo. Diego Urbina, 26 anni, dicevamo italiano, nato a Bogotà. Mia madre è italiana, io sono andato in Italia nel 2002 per incominciare a studiare e da allora che abito lì. Direi che il training di sopravvivenza è stata la parte più difficile. Non è che sia stato impossibile o che ci sia stato rischio di morte o cose del genere, ma quando il comandante, che è un russo grosso così, i russi sono tutti così, ecco, hanno scelto proprio lui per simulare che si è rotto la gamba e abbiamo dovuto trascinarlo con un metro di neve, tipo quasi un chilometro secondo me, e quella è stata la parte più dura. Nella natura umana l'esplorare, è da sempre che abbiamo esplorato il mondo, abbiamo più o meno coperto il mondo, adesso dobbiamo cercare un'altra frontiera, dobbiamo andare su Marte anche per ragioni di sopravvivenza, nel caso ci fosse un problema sulla Terra, abbiamo solo la Terra, siamo tutti qui, siamo tutti morti e sparisce la razza umana. Se abbiamo qualche base su Marte sarà diverso. Una visione un po' drammatica, ma in tempi più rapidi quale potrebbe essere il premio invece per voi? Che, ricordiamolo, siete ancora in quattro candidati e ci sono solamente due posti su questa astronave che di fatto volerà solo all'interno di un hangar russo. Sì, vabbè, per noi ci sono tutte le cose che impariamo nel training, stiamo imparando tanta scienza che io non sapevo che stesse succedendo, gli esperimenti europei sono interessantissimi, gli esperimenti russi anche, e poi possiamo avere possiamo guardare come funziona il programma spaziale russo umano, che è molto interessante, specialmente per me. Io ho lavorato al centro degli astronauti europei l'estate scorso e vedere, cioè, quello che si sta facendo là in parallelo con l'Europa è abbastanza interessante, almeno per me. Sicuramente non diventeremo ricchi con quello che guadagniamo qui, e secondo me se qualcuno pensa di fare questo solo per i soldi è un po' pazzo. Ci sono tante altre cose su cui guadagnare come esperienza, secondo me, più che i soldi sono sufficienti. Allora, il nostro contributo all'esperimento per, diciamo, verso i russi è di 1,5 milioni, tutto compreso. Se volete sapere quanto prenderanno loro, una cifra che oscilla tra 55 e 75 mila euro, che è decisamente appena sufficiente a pagare le spese. Per ciascuno, per due anni, certo. Il modulo abitativo è un cilindro lungo 20 metri e largo 3 metri e mezzo, dove l'equipaggio trascorrerà la maggior parte del tempo. Comprende gli spazi individuali con un lettino, un armadio, una piccola scrivania, una sala comune, la sala di controllo, la cucina, il bagno. Poi c'è il modulo magazzino, che è il più grande, 24 metri per quasi 4, e comprende, oltre ai viveri e ai rifornimenti, una serra, la palestra, la sauna. Poi ci sono il modulo medico, 9 metri per 3,8, e quello che simula il veicolo per atterrare su Marte, lungo e largo poco più di 6 metri. Ospiterà i tre astronauti virtuali che per un mese si staccheranno dal resto dell'equipaggio per lavorare sul suolo di Marte, ricostruito proprio in un ambiente con la sabbia rossastra, in un quinto modulo esterno agli altri. Insomma, tutto è stato preparato per essere realistico e credibile. Gli esperimenti selezionati sono in tutto 95 e prevedono test per misurare parametri psicologici e fisiologici importanti come lo stress, l'equilibrio, l'umore, la forma fisica, escluse le donne. E di questo parleremo proprio con Simonetta Di Pippo subito dopo gli aggiornamenti per Chi è in viaggio.